Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Fare presto per dare certezza ai lavoratori della Wärtsilä è l'appello dei sindacati sul caso dello stabilimento triestino lanciato in audizione alla Commissione Lavoro della Camera. Quasi 700 posti di lavoro da Fincantieri e dalle aziende dell'indotto cercano carpentieri e saldatori, ma anche progettisti d'arredo e di impianti, informatici e addetti agli acquisti. Il 18 aprile a Monfalcone una giornata dedicata al reclutamento, curriculum da inviare entro il 10 aprile. Calano le richieste di mutui e prestiti, privati e aziende spaventati dalle incertezze finanziarie e gli aumenti del costo del denaro fanno aumentare le rate dei mutui a tasso variabile. Generali, crescita record, utile netto a 3 miliardi e per gli azionisti un dividendo da 1,16 euro approvato dal CDA al bilancio 2022 e l'Assemblea degli azionisti il 28 aprile a Trieste. Nel 2022 il valore dell'export regionale è cresciuto più che nell'intero nord-est e al di sopra della media italiana. E tra i nuovi mercati c'è il Qatar. Gas radon in regione, monitorate 79 scuole, in 21 rilevate concentrazioni eccessive, è il risultato del monitoraggio 2022 dell'ARPA. Oggi giornata nazionale contro i disturbi alimentari, casi di anoressia e bulimia già a 10-11 anni, difficile per le famiglie riconoscere il disagio, ma diminuiscono i ricoveri esplosi nel post pandemia. L'ATER di Gorizia punta alla creazione di comunità energetiche tramite il fotovoltaico, da abbattere il costo delle bollette, è aumentato il numero di inquilini. Morosi. Attività educative nelle serre del parco di Miramare le propone Miralab, nuova iniziativa che arricchisce l'offerta del gettonatissimo sito triestino. Porta sul palco la figlia undicenne che interpreta con lei Giulietta, l'étoile Eleonora Bagnato, stasera al Verdi di Gorizia. Rivive così l'esperienza di quando lei, bambina, ballò con Carla Fracci. Triestina e Pordenone in campo oggi per il campionato di Serie C di calcio. La Bardata in trasferta contro Renate e Pordenone in casa nella gara sulla carta semplice contro il Piacenza. Sono le 7:20 di mercoledì 15 marzo. Buongiorno da Anna Vitaliani, Andrea Covri in studio per questa prima edizione del giornale radio regionale. Diamo un'occhiata al tempo, il cielo da nuvoloso a coperto sulla regione. Le temperature registrate alle 6, Udine, Trieste 10,5 gradi, Pordenone 9,5, a Gorizia 9 gradi, Tolmezzo 4, Tarvisio 3, Forni di Sopra 2, Piancavallo 1,5 gradi, Salpada 0, sul Monte Zoncolan -2,5 gradi, Monte Lussari -4,5. Tornando sulla costa, Lignano e Grado 10,5 gradi. Le previsioni dell'ARPA oggi di primo mattino saranno possibili precipitazioni residue, specie ad est, in seguito tempo in deciso miglioramento, con cielo in prevalenza poco nuvoloso anche sereno. In giornata tuttavia non si esclude la possibilità di qualche breve localizzato rovescio anche temporalesco, specie tra pianura e costa. Soffierà vento da nord, moderato in pianura e nelle valli, specie al pomeriggio in quota sarà sostenuto. Ora le notizie, in primo piano il mondo del lavoro, a Trieste resta in bilico il futuro dei dipendenti della Wärtsilä di Sant'Orligo della Valle d'Olina. La svolta per garantire l'occupazione dovrà arrivare dopo l'estate, l'avvertenza col gruppo finlandese è anche all'attenzione del governo e del Parlamento. Ieri i sindacati sono stati ascoltati dalla Commissione Lavoro della Camera. Fare presto perché settembre, con l'estate di mezzo, è vicino. A settembre, come da accordi siglati 4 mesi fa, cessa la produzione alla Wärtsilä di Sant'Orligo e la domanda, da allora a tutt'oggi, resta la stessa. E poi? Non si sa ancora e nell'attesa circolano voci su possibili gruppi interessati a subentrare. Di mezzo un migliaio di lavoratori, fra diretti e indiretti. Fare presto perché nel frattempo i più qualificati di essi, nell'incertezza, si guardano intorno e cercano di andare altrove. Trove, con una perdita di competenze qui. I sindacati, auditi dalle commissioni attività produttive e lavoro della Camera dei Deputati in seduta congiunta, hanno descritto con chiarezza la situazione, le preoccupazioni e la necessità di accelerare i tempi, facendo appello al governo. I rappresentanti nazionali e locali di FIOM-CGL, FIM-CISL, UILM e UGL hanno ricordato ai deputati il senso della grande partecipazione popolare alla manifestazione che si tenne in settembre a Trieste. Un segnale dell'importanza del sito produttivo per la città e per la regione e, è stato ricordato ancora, del ruolo strategico per l'industria italiana riconosciuto dallo Stato. Se non si fa nulla, è stato detto, si rischia il paradosso. Fincantieri, cliente di Wärtsilä, potrebbe andare a comprare in Finlandia i motori che prima si facevano a Bagnoli della Rosandra. E dunque, hanno chiesto i sindacati al governo, occorre stringere sulle manifestazioni di interesse. Al momento circolano i nomi della tedesca tedesca Rheinmetall e della giapponese Mitsubishi, ma non è escluso che qualche nome possa tirarsi fuori e qualche altro entrare. Giovedì le stesse commissioni ascolteranno i rappresentanti di Confindustria Alto Adriatico. Entro marzo, finalmente, la riapertura del tavolo Varsila al Ministero delle Imprese. Trieste, Antonio Cajazza, TGR Friuli Venezia Giulia. E Fincantieri intanto annuncia centinaia di assunzioni in Friuli per l'ingente carico di lavoro. Ho organizzato un recruiting day per il 18 aprile a Monfalcone che riguarderà anche le imprese dell'indotto. Monfalcone, Trieste, Ronchi dei Legionari, San Giorgio di Nogaro e in piccola parte Pordenone. Potranno essere assunti in diversi luoghi 780 lavoratori cercati da Fincantieri e dalle 30 aziende dell'appalto. Il 18 aprile si terranno i colloqui per il Recruiting Day organizzato con Regione e Comuni di Monfalcone, ma i curriculum vanno inviati entro il 10. Le indicazioni sono sul sito della Regione. Si cercano per lo più carpentieri, saldatori, elettricisti, tubisti e montatori, professionalità non semplici da reperire. E per la prima volta da anni, operai specializzati saranno assunti direttamente da Fincantieri, 33 sui 150 addetti che il gruppo intende contrattualizzare. Il direttore delle risorse umane di Fincantieri, Luciano Sale, spiega perché. In questo momento vogliamo dare un segnale anche alla manodopera e poter assumere degli operai ci dà anche una giusta visibilità rispetto alle attività che vorremmo portare nel futuro. Molte le posizioni aperte anche per figure che svolgono attività non manuali come progettisti strutturali, d'arredo e di impianti, addetti agli uffici acquisti e informatici. Da quando la Regione lo ha avviato qualche anno fa, questo è il più grande recruiting day di tutti. Se ne organizzano diversi ogni anno. Del resto, trovare lavoratori, soprattutto operai, è sempre più difficile per le imprese oggi. Gianni Fratte della Direzione Centrale del Lavoro. Il tasso di disoccupazione non è elevatissimo, è sotto i livelli nazionali, quindi non diamo per certo la piena occupazione, ma siamo a un livello buono, quindi è un problema non solo di qualità del personale, ma un termine numerici, cioè mancano i numeri. Ecco. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. I progressivi rialzi del costo del denaro pesano su famiglie e imprese che hanno mutui a tasso variabile e adesso ci si mettono anche le incertezze legate al terremoto che negli Stati Uniti ha coinvolto alcune banche. Tra gli effetti un rallentamento delle richieste di prestiti. Rate di mutui a tasso variabile aumentate anche del 50%. In tanti, indicano le associazioni dei consumatori, si rivolgono alle banche chiedendo sospensioni. Per chi ha già ottenuto il credito, gli istituti del territorio stanno offrendo la possibilità di rimodulare il finanziamento, spalmandolo nel tempo, e per i nuovi mutui proposti anche tassi di ingresso fissi che si trasformano poi in variabile dopo qualche anno. Innegabile però che le politiche monetarie europee abbiano provocato un raffreddamento delle richieste di mutui. Mario Crosta, direttore generale di CiviBank. Rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente notiamo un rallentamento tra il 10 e il 15%. Abbiamo riassistito un po' anche alla richiesta di surroghe, che è sostanzialmente un mercato, un'attività che era pressoché scomparsa. Giuseppe Graffi Brunoro, presidente di Primarcassa, credito cooperativo del Friuli Venezia Giulia. Sicuramente c'è molta più ponderazione da parte delle famiglie, c'è sicuramente qualcuno che viene a rinegoziare magari ponendo un cap e allungando il proprio mutuo perché probabilmente il tasso variabile comincia a diventare pesante. Non solo mutui, come segnala Consumatori Attivi, coloro che vogliono investire senza profili di rischio non sanno più che fare. Prendiamo gli stessi titoli di Stato o bancari, il loro rendimento dipende anche dai tassi di interesse e non si sa se continueranno a salire a questi ritmi o se ci sarà un'inversione di tendenza. Incertezza pure tra le imprese, anche se qui non sembra scemare la voglia di effettuare investimenti. Quello che notiamo nelle ultime settimane è una certa ripresa, in modo particolare nel mondo delle piccole e medie imprese della meccanica. Ecco, qui qualcosa si sta muovendo. Mi pare che sia rimasta ancora importante, ancora significativa la richiesta di finanziamenti per investimenti, segno che gli imprenditori comunque guardano al futuro con una certa positività. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia. Il bilancio di Generali è stato approvato dal Consiglio d'amministrazione del Leone di Trieste. Nel 2022 la raccolta premi complessiva ha toccato gli 81 miliardi e mezzo, un aumento dell'1,5%, mentre il ramo danni è salito di quasi il 10%. L'utile netto del gruppo ha sfiorato i 3 miliardi di euro con una crescita del 2,3% e all'assemblea in calendario a Trieste il 28 di aprile sarà proposto il pagamento di un dividendo di 1,16 euro ad azione, 9 centesimi in più dell'anno scorso. Nella linea auto, visto il contesto inflattivo, si prevede un aumento delle tariffe. Le imprese della regione nell'ultimo anno hanno esportato di più e meglio, una crescita trainata soprattutto dalla cantieristica navale, ma condizionata anche dall'inflazione. A dirlo una indagine dell'IRES, e tra i nuovi mercati spicca il Qatar. Vale oltre 22 miliardi di euro l'export delle imprese del Friuli Venezia Giulia nel 2022, quasi 4 miliardi in più dell'anno precedente, il miglior risultato nel nord-est che nel complesso fa segnare il più 16% e un poco più alto anche della crescita nazionale al più 20%. Migliora dunque il nostro posizionamento sui mercati esteri, ma si tratta di una crescita fortemente condizionata dall'inflazione che ha riguardato quasi tutti i settori merceologici, spiega l'indagine dell'IRES Friuli Venezia Giulia elaborata su dati Istat. Tra i comparti che hanno registrato il maggior incremento del valore delle vendite estere, quello delle navi e imbarcazioni, cresciuto del 28%, seguito dalle produzioni in metallo, siderurgia inclusa, dai macchinari e apparecchiature e mobili. I dati territoriali mostrano aumenti sostenuti in tutte le ex province, con in testa Gorizia che segna quasi un 50% in più grazie soprattutto al positivo andamento delle commesse della cantieristica navale. Quanto ai mercati dell'export, il Qatar risulta la novità dell'ultimo anno, sul quale spicca il raddoppio delle vendite di navi, anche militari. In forte incremento anche le esportazioni destinate al mercato comunitario, con Germania, Francia e Austria tra i partner commerciali più importanti. E ancora, al di fuori dell'Unione Europea, dopo il Qatar, si registrano flussi significativi verso gli Stati Uniti e la Svizzera, trainati sempre dalla cantieristica navale, ma anche dal comparto del mobile. Continua invece la contrazione degli scambi commerciali con la Federazione Russa, dopo quasi 10 anni di sanzioni, ulteriormente ridotti del 30% lo scorso anno e circoscritti per lo più ai macchinari e mobili. Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia. La cronaca ora: è morta all'ospedale di Udine per le gravi ferite riportate Valli Giacomini, 77enne di Tavagnacco. La donna ieri a bordo della sua auto al lato passeggero si è scontrata frontalmente con un camion a Salta di Povoletto lungo la provinciale 104. Anche il marito, che era alla guida della vettura, ha subito un trauma toracico ed è stata ricoverato al Santa Maria della Misericordia. È in condizioni serie ma non in pericolo di vita. E in un altro incidente, ieri a Rupa di Savogna di Sonzo, lungo il vallone, un uomo ha perso il controllo della vettura che stava conducendo ed è andato a schiantarsi contro un albero. È accaduto poco prima dell'ingresso dell'abitato di Rupa. Il personale medico ha preso in carico la persona ferita, che ha riportato un trauma al bacino e un trauma cranico. Poi il trasporto in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in condizioni piuttosto serie. E torniamo a parlare di radon nelle scuole. Il gas naturale cancerogeno trovato la settimana scorsa in quantità oltre i limiti consentiti nell'asilo Don Marzari di Opicina, un problema molto diffuso in regione. In quasi il 30% delle scuole monitorate da ARPA nel 2022 sono stati registrati livelli troppo elevati di radon. Su 79 edifici scolastici analizzati in Friuli Venezia Giulia, 21 sono inquinati da livelli troppo alti di radon, compresi nidi e scuole dell'infanzia. È il bilancio dei monitoraggi eseguiti da ARPA nel corso del 2022 e solo nell'ultimo mese l'agenzia ha rilevato altri 10 edifici scolastici con sforamenti dei limiti massimi di radon. È un gas radioattivo naturale prodotto dal decadimento dell'uranio. È inodore ed incolore, ma molto pericoloso per la salute. È un cancerogeno certo ed in particolare la seconda causa di tumore ai polmoni dopo il fumo di sigaretta. Il radon è presente in tracce nel sottosuolo quasi dappertutto, ma nella provincia di Trieste e Udine troviamo le concentrazioni più elevate della regione. Questo gas si diluisce velocemente all'aria aperta, ma si concentra negli ambienti chiusi, soprattutto in conseguenza del ridotto ricambio dell'aria. Negli ultimi 22 anni ARPA ha svolto più di 20.000 controlli in 2.000 scuole, fornendo anche le indicazioni per gli interventi utili a ridurre la concentrazione di questo gas, Tra i principali rimedi ci sono le sigillature delle vie d'ingresso come crepe e fessure dal sottosuolo verso l'edificio e l'aumento della ventilazione attiva e passiva. La legge prevede 2 anni di tempo per il risanamento. Il radon può insinuarsi anche nelle case o appartamenti, soprattutto al piano terra. Chi volesse misurare l'eventuale presenza di radon in casa o in azienda può fare richiesta ad ARPA tramite sito web. L'agenzia invia un dosimetro e le istruzioni per il corretto collocamento. Il costo è di 70 euro più IVA. Trieste, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. Alle 7.33 la politica con gli appuntamenti elettorali. Beati i poveri è un titolo provocatorio quello scelto dal Centro Balducci di Zuliano per la tavola rotonda aperta al pubblico con i candidati alla presidenza della regione. Partire dai poveri, dice Don Paolo Iannacone, presidente del Centro Balducci, è la chiave per uno sguardo profetico su un mondo nuovo da costruire con loro e non senza di loro. Il confronto si tiene dalle 18 alle 20, coinvolgerà 3 dei 4 candidati. Il governatore Massimiliano Fedriga non sarà presente a causa di precedenti impegni istituzionali. Hanno confermato la loro presenza Giorgia Tripoli, candidata per Insieme Liberi, Alessandro Maran per il Terzo Polo e Massimo Moretuzzo per il Centro-Sinistra. In vista delle elezioni del 2 e 3 aprile, oltre alla Regione Friuli Venezia Giulia, come noto, si voterà anche per il Comune di Udine e a Udine l'Università della Terza Età ospita questo pomeriggio alle 17 un dibattito tra i 4 candidati alla carica di sindaco che verranno moderati dal direttore del Friuli, Rossano Cattivello. Il tema scelto è legato all'invecchiamento attivo sia psicologico che fisico. E i 4 candidati alla carica di sindaco di Udine saranno protagonisti della tribuna elettorale che andrà in onda oggi alle 13.15 sulla terza rete televisiva della RAI. Un confronto a tutto campo per Pietro Fontanini, Stefano Salmei, Ivano Marchiol e Alberto Felice De Toni sui temi chiave della campagna elettorale per Palazzo d'Aronco. La tribuna verrà replicata per radio alle 17.05 su questa stessa rete e sarà poi visibile anche su internet nella sezione dedicata del nostro sito rainews.it/tgr/FVG. Monumenti illuminati di lilla oggi per la giornata nazionale per la lotta contro i disturbi del comportamento alimentare. Il Comune di Trieste aderisce così alla campagna Never Give Up, illuminando la Fontana del Nettuno di Piazza della Borsa. Tante però le iniziative in regione, all'Istituto Superiore Zanussi di Pordenone per esempio, oggi molti studenti, genitori e insegnanti indosseranno indumenti o accessori color lilla, simbolo della giornata. La scuola da tempo lavora sulla sensibilizzazione di questo tema, già la scorsa estate durante una summer school studenti dell'Istituto Superiore ma anche la Fondazione Ragazzi in Gioco e ActionAid hanno iniziato a lavorare a dei volantini, a un ciclo di incontri formativi per ragazzi che partiranno ad aprile. Ma se fino a qualche mese fa si parlava di pandemia, nella pandemia per il numero di pazienti con disturbi alimentari che arrivavano negli ospedali, oggi sembra di vedere una luce in fondo al tunnel, come ci racconta la responsabile della gastroenterologia del Burlo, Grazia Di Leo. C'è stata una riduzione dei ricoveri per problematiche di tipo grave legate al supporto nutrizionale di tipo artificiale, però effettivamente questo trend è migliorato da troppo poco tempo, diciamo a partire da novembre, quindi dobbiamo un po' valutare se questa è una deflessione in qualche modo momentanea o se invece ripartirà ancora la situazione che avevamo precedentemente, sicuramente legata alla sofferenza che i ragazzi e le ragazze hanno avuto nella fase della pandemia da Covid. Si abbassa l'età delle pazienti? Sì, questo sì, ecco, questo stiamo notando, che comunque c'è un abbassamento dell'età di esordio anche diciamo attorno ai 10-11 anni, con le caratteristiche del disturbo di tipo alimentare adolescenziale in qualche modo. Di fronte a bambine così piccole, 10-11 anni, forse è anche difficile per la famiglia individuare che ci sia un problema di questo tipo, cioè non ci si pensa. Sicuramente questa è una giusta osservazione, nel senso che la famiglia porta la ragazza pensando a un problema organico, a una malattia gastrointestinale. E quello che è importante sicuramente anche in qualche modo coinvolgere i pediatri e i medici di medicina generale, e che in qualche modo devono anche parlare con questi ragazzi, questi adolescenti, e anche parlare di alimentazione verificando dove ci sono delle criticità, dove ci sono delle selettività di alimentazione, dove c'è la riduzione di cibi particolarmente calorici. Questi sono dei campanelli d'allarme o delle bandierine rosse. Alle 7.38 andiamo a San Canzian di Sonzo, dove è stato consegnato un nuovo lotto di alloggi ATER. L'azienda territoriale per l'edilizia residenziale punta a migliorare l'efficienza energetica, creando dei gruppi di produzione di energia elettrica tramite il fotovoltaico. Azzerare le bollette con la possibilità addirittura di guadagnarci qualcosa. L'ATER Gorizia, che sta cercando di efficientare il consistente e datato patrimonio immobiliare risalente in gran parte agli anni 50, apre alla creazione di mini comunità energetiche per produrre tramite pannelli fotovoltaici l'energia elettrica necessaria e poter vendere quella in eccesso. Ce lo racconta Alessandra Gargiulo, dirigente ATER Gorizia. Oltre all'efficientamento energetico, ne stiamo valutando anche la possibilità del ricorso delle comunità energetiche, che ci consente l'installazione di pannelli fotovoltaici sulle coperture dei nostri fabbricati, con una ricaduta positiva anche nei confronti degli inquilini, non solo come autoconsumo dell'energia prodotta, ma anche come un piccolo ritorno economico a livello di bolletta energetica. Un investimento che andrebbe incontro alle esigenze degli inquilini da dopo la pandemia e soprattutto negli ultimi 12 mesi è aumentato di molto il numero degli assegnatari morosi, non tanto per il canone quanto proprio per le bollette di luce e gas. 1 su 10 è in ritardo nei pagamenti, con un buco per l'ATER Isontina di 800.000 euro di morosità. C'è una difficoltà perché sicuramente le bollette hanno subito dei forti incrementi, soprattutto laddove il riscaldamento è centralizzato e quindi oltre al canone l'inquilino versa anche la quota relativa ai costi di riscaldamento. Abbiamo cercato di diluire per quanto possibile i conguagli e gli acconti proprio per non gravare eccessivamente. Confidiamo che adesso, con un ritorno un pochino a valori più contenuti dell'energia, si possa dare la possibilità ai nostri inquilini di rientrare in maniera non troppo così consistente su quello che è il canone e le spese accessorie. Intanto a San Canzian sono stati ultimati i lavori di ristrutturazione da 500.000 euro per la realizzazione di 6 nuovi alloggi. I nuovi inquilini ne prenderanno possesso entro primavera. Gorizia, Andrea Saulo e TGR Friuli Venezia Giulia. A Trieste, nel Parco del Castello di Miramare, sono stati presentati nuovi spazi educativi e iniziative didattiche per i bambini. Le serre nuove del Parco del Castello di Miramare diventano uno spazio multifunzionale tutto dedicato alle attività educative. Taglio del nastro per il Miralab, che dopo quell'orangerie che ha realizzato un sogno che fu già di Massimiliano d'Asburgo, aggiunge un altro tassello all'offerta del complesso. Andreina Contessa, direttrice del Museo Storico e Parco del Castello di Miramare. Ogni museo ha una missione educativa che non poteva essere espletata al 100% in quanto mancava proprio uno spazio dedicato ai bambini. Io l'ho sempre sentito come una mancanza del nostro museo, e finalmente questo spazio c'è. È di fatto il riutilizzo delle serre nuove che in questo momento, vedete, sono state completamente riqualificate, ospitano già l'orangerie. Nel portico c'è questo portico bellissimo per le attività estive, ci saranno dei tavoli di metallo anche per il giardinaggio. E all'interno un progetto molto bello, modulare, interscambiabile, che si può aprire e chiudere e quindi può essere utilizzato in vario modo. Nuovi spazi, insomma, che per il primo giorno hanno accolto una classe della scuola primaria Rossetti e che da subito saranno disponibili per tutta una serie di attività didattiche, dai laboratori di botanica alla caccia al tesoro fra le statue del parco, che riaccoglieranno i ragazzi delle scuole dopo la pausa forzata dovuta alla pandemia. Io spero che ritornino numerosi, perché una grande novità è che c'è uno spazio educativo dedicato ai ragazzi che prima non c'era. La seconda grande novità è che c'è finalmente una didattica nel parco. Ci sono le passeggiate botaniche, ci sono tutte le attività legate all'aspetto naturalistico del parco, e ci sono anche quelle storico-artistiche. Quindi c'è tutto un lato che mancava e che viene finalmente colmato. Trieste, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. Le 7.42, lo sport, il calcio, turno infrasettimanale per la Serie C nel girone A, giocherà per prima la Triestina, che alle 14.30 sul campo del Renate cercherà di trovare continuità dei risultati dopo l'ultima convincente vittoria casalinga contro la Pro Patria. Obiettivo: blindare e possibilmente scalare la zona play-out. Ad aiutare i rossoalabardati potrebbe essere il Pordenone, che ha obiettivi di alta classifica e che alle 18 allo stadio Tognon di Fontana Fredda giocherà contro il Piacenza, ultimo in grado sanatoria. L'allenatore ed ex capitano del Pordenone Mirko Stefani invita i suoi a non sottovalutare l'avversario. Vengono da una bella vittoria fatta domenica in uno scontro dove per loro era molto importante. Siamo consapevoli che hanno ottime qualità, nel reparto offensivo hanno giocatori di altissima qualità e anche di esperienza. La squadra, da quello che abbiamo studiato e visto, è compatta, è viva. È una partita seria, una partita dove dobbiamo esserci, dobbiamo rispondere colpo su colpo, dobbiamo avere la capacità di comandare il gioco, di avere grande personalità, coraggio, ma sempre con ordine e equilibrio. Sono le 7.43, apriamo la nostra rassegna stampa e partiamo dal Piccolo di Trieste che in prima pagina annuncia l'avvio della stagione delle crociere. Il ritorno delle crociere, obiettivo 500.000 arrivi è il titolo. Domenica, il primo attracco della stagione, ci saranno meno toccate, i viaggi saranno più lunghi e le navi più piene. Tema questo approfondito nell'apertura delle cronache cittadine. Una grande foto in prima pagina ritrae la sede di Generali con il titolo Conti Record, che si riferisce al bilancio consolidato per il 2022, appena approvato dal Consiglio d'amministrazione del Leone di Trieste. In prima pagina sul Piccolo anche l'annuncio di Fincantieri e delle ditte dell'indotto che reclutano 680 nuovi addetti e poi il richiamo di un approfondimento interno dedicato all'avvio della stagione balneare con bagnini introvabili e pochi lavoratori stagionali, tanto che gli stabilimenti sono in difficoltà in vista della riapertura. Oggi intanto sarà una giornata cruciale per Porto Piccolo Assistiana, ricorda il Piccolo. I vecchi gestori devono lasciare e anche qui c'è in ballo il futuro di uno stabilimento, quello di Castelreggio. Infine un annuncio a sorpresa, c'è un nuovo monumento a Trieste, oggi verrà inaugurato davanti alla chiesa di Sant'Antonio Nuovo con la scopertura di una statua per ricordare Monsignor Santin, statua di cui in pochissimi sapevano e che è stata finanziata da un fedele rimasto anonimo. Il Messaggero Veneto dedica l'apertura al mega evento di metà maggio, tutto esaurito negli hotel per la Dunata degli Alpini, alcune prenotazioni dirottate in Veneto, in particolare a Jesolo, prezzi alle stelle per gli alloggi in affitto. E poi nella fotonotizia si guarda la stagione estiva, il pontile di Pineta dipinto d'azzurro, la stagione apre il 25 di aprile. Nelle pagine interne del giornale spazio alla polemica sul riconoscimento dei figli da coppie omosessuali, figli di serie B, il titolo, intervista al costituzionalista Giovanni Maria Flick, una scelta politica non tutelarli, dice, si fa battaglia sulla pelle dei minori. Ancora il tema dell'edilizia, l'era dei bonus non è finita, serviranno anche per la sostenibilità, a dirlo al giornale Roberto Contessi, presidente di ANCE FVG. Grazie al 110% in Friuli Venezia Giulia avviati lavori per 1,4 miliardi di euro in 3 anni, in 9 casi su 10 si tratta di villette. Si parla tanto di settimana corta, il Messaggero racconta l'esperienza della multitema azienda di Remanzacco che progetta interni di abitazioni e uffici, si lavora 36 ore con stipendio da 40, il titolare dice è giusto gratificare i dipendenti lasciandoli un pomeriggio libero in più. La pagina della cronaca cittadina apre sulla questione dei bar chiusi, mentre per il Contarena sarà il prossimo sindaco a bandire la gara, Zecchini e Savio non riapriranno a breve perché servono lavori di ristrutturazione. Dal Gazzettino edizione del Friuli, autostrade a giugno, la fase 2 della Newco, via il conto alla rovescia per la nuova concessione trentennale della rete e poi il mercato immobiliare. Case in regione, rincari vertiginosi, anche 5.000 euro in più rispetto a febbraio 2022 per un'abitazione medio-piccola. La corsa non si è ancora fermata. L'edizione di Gorizia e Monfalcone del Piccolo apre la prima pagina con il titolo su Fincantieri, la giornata delle 680 assunzioni. Il 18 aprile Recruiting Day a Monfalcone, il gruppo cerca 180 lavoratori, gli altri 500 per l'indotto. Sopra il primo titolo una foto dedicata ai murales nascosti di Crali, si riferisce agli affreschi del pittore futurista realizzati nella casa del mutilato e dedicati al ciclo del grano. Ora si pensa di renderli fruibili al pubblico con modalità di visita visita da concordare con il comune. Il tema apre le cronache di Gorizia del Piccolo, dove si dedica anche un'apertura al pasticcio della Tari. La mancata comunicazione al Ministero dell'adeguamento tariffario ha di fatto reso nulli gli aumenti e le bollette già pagate dai goriziani andranno rimborsate dal comune. Le pagine dedicate a Monfalcone si aprono invece con i dettagli della ricerca di personale da parte di Fincantieri e delle ditte dell'indotto, previsti contratti a tempo indeterminato e per i principianti profilo junior e stage non è richiesta esperienza. Il Messaggero Veneto, edizione di Pordenone, apre le pagine della cronaca sul nuovo ospedale. Manovra da 90 milioni, 100 posti letto in più, apertura confermata per l'inizio dell'estate 2024 e poi gli altri servizi in 6 anni. Giù i vecchi padiglioni, a partire dalla torre da 4 piani, parco e parcheggio. Nelle pagine interne l'intervista al giocatore di calcio Osadolor, nigeriano di 31 anni, che ha alzato le mani su un direttore di gara. Spero solo di non essermi trovato al centro di un caso di razzismo. Mi scuso, dice, per lo schiaffo e accetterò la squalifica, ma io non sono questo. Il giornale riporta le foto del laghetto San Giorgio tinto di bianco. Il comune monitora e aspetta gli esiti sulle acque delle indagini di ARPA. Andiamo poi a Porcia. Riapprovato il piano di Palazzo Remigio, il restauro più vicino avrà finalmente una nuova vita al servizio della comunità, sportello per il pubblico e sede di associazioni. Dal Gazzettino, edizione di Pordenone, in primo piano di nuovo i prezzi delle case alle stelle, poi si parla di ospedale, la cittadella che raddoppia, la regione al lavoro, sorgerà al posto dell'attuale struttura e ospiterà cure intermedie, laboratori e tanto verde. E poi la mobilità, nuove fermate di bus, ecco la svolta, si va da Borgo Meduna a Valle Noncello, tutti i punti aggiunti, la proposta punta ad incrementare l'uso dei mezzi pubblici che in provincia annovera numeri più bassi del territorio. Questa sera sul palco del Teatro Verdi di Gorizia alle 20:45 la ballerina Gia Étoile dell'Opéra di Parigi Eleonora Abbagnato sul palco con Giulietta, spettacolo di Daniele Cipriani. La particolarità dello spettacolo sta anche nel fatto che a ballare con lei ci sarà anche sua figlia Giulia di 11 anni. Assieme a loro danzeranno molte stelle internazionali della danza, ad accompagnare Giulietta bambina e Giulietta adulta Tchaikovsky. Per l'Étoile è direttrice della compagnia di ballo del Teatro dell'Opera di Roma, ha bagnato una sorta di ritorno alle origini, a quando lei stessa a 11 anni ballò con il mito della danza di tutti i tempi, Carla Fracci. Oggi alle 18 nel ridotto Macedonio del Teatro si terrà la prolusione di approfondimento dello spettacolo a cura della Scuola di Danza Tersicore e dell'Università della Terza Età di Gorizia. L'ingresso è libero. Doppio appuntamento questa sera al Politeama Rossetti di Trieste, in Sala Bartoli alle 21:30, sipario aperto per Andrea Bosca, che è il protagonista della Luna e il Falò, dell'omonimo romanzo di Cesare Pavese per la regia di Paolo Briguglia. Ma questa sera a Rossetti c'è anche spazio per la musica, in Sala Assicurazioni Generali alle 20:30 tango, Historias de Astor, spettacolo di parole, musica e tango di Miguel Ángel Zotto, una star assoluta del tango. Accanto al maestro in scena Diana Guspero e altre 3 coppie di ballerini e l'orchestra dal vivo Tango Sonos. Sarà dedicato all'ARPA il recital che va in scena questa sera alle 20:30 al Conservatorio Tartini di Trieste sul palco l'arpista tedesca Miriam Schroeder, concertista di fama internazionale, professoressa di ARPA all'Università della Musica e delle Arti dello Spettacolo di Vienna, in programma pagine musicali di Roberto Lupi, Goffredo Petrassi, Gabriel Fauré e Marcel Tournier. Lella Costa ed Elia Shilton sono i protagonisti delle Nostre Anime di Notte, delicata pièce tratta dall'omonimo romanzo dello scrittore americano Kent Haruf, in scena stasera al Teatro Nuovo Giovanni da Udine. Eddie e Louis, entrambi vedovi ultra settantenni, vivono da soli a pochi metri di distanza l'uno dall'altra. La notte si terranno compagnia raccontandosi delle diverse vite tra confessioni e ricordi. L'acqua è risorsa sempre più strategica, si celebra il 22 marzo la giornata mondiale dell'acqua e oggi alle ore 11 all'auditorium del CAFC SPA a Udine si terrà il convegno L'acqua che verrà, promosso dalla rete dei gestori del servizio idrico integrato della regione. Tra i relatori Renato Colucci, glaciologo e ricercatore CNR, e Vincenzo Bixio, docente del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell'Università di Padova, che ha appena realizzato uno studio sulle precipitazioni nella nostra regione. Imparare a tutelare e conservare i parchi storici con un particolare occhio di riguardo rivolto alle piante secolari e protette sono le finalità di un percorso formativo di nuova istituzione rivolto ai giovani che desiderano diventare giardinieri d'arte, una professione che sta trovando sempre più sbocchi occupazionali. Il corso inizia oggi nella sede dello IAL di Udine. 700 le ore del percorso formativo, di cui 94 di teoria, 206 di pratica e affiancamento e 300 di stage. E sarà Villa De Claricini Dornpacher, assieme ad altre strutture, ad offrire il terreno per sperimentare quanto appreso. Vediamo ora altri appuntamenti. Alle 20.30 al Teatro Mila di Trieste, lo spettacolo La Principessa Azzurra, uno scatenato intelligente alternarsi di teatro comico e grottesco, di teatro fisico e di narrazione, a tratti anche stand-up comedy. Lo psicanalista Massimo Recalcati sarà all'Università di Udine per un seminario sul paradigma securitario, le nuove melanconie, l'evento aperto al pubblico al Polo di Via Tomadini a Udine dalle 15 alle 18. Al Civico Museo Teatrale Carlo Schmitz, doppio appuntamento dedicato a oboe e fagotto alle 11 alle 17.30 con i docenti del Conservatorio Tartini, Pietro Milella e Sergio Lazzari. Alle 19.30 al Kulturnidom di Gorizia l'incontro dal titolo Sbirri, storie di investigatori geniali, ospite della serata Massimo Picozzi, chirurgo psicoterapeuta specializzato in criminologia clinica. Alla Libreria Moderna Udinese, ore 18, la presentazione del libro Storia della Brigata Partigiana Ippolito Nievo A di Mario Bettoli, tratto dagli scritti originali del 1946. E Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11 con la presentazione dei programmi regionali e le anticipazioni del giornale radio delle 12.30. Alle 11.10 la rubrica in friulano Vue o Fevelindì, che parlerà degli apicoltori della nostra regione. Alle 11.20 andrà in onda A Volo Radente. I programmi regionali torneranno poi alle 13.29. Sono le 7.54, chiudiamo questa edizione del giornale radio regionale, redatta e condotta in studio da Anna Vitaliani e Andrea Covre. È andata in onda grazie alla collaborazione tecnica di Federico Comar e Bassia Krismancic. In redazione ha collaborato Manuel Bussani. Grazie per la vostra cortese attenzione, buona giornata e buon proseguimento d'ascolto. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.